5 Stelle presenta la richiesta di impeachment per Napolitano. Intanto la Commissione Affari Costituzionali approva il testo base della legge elettorale. Inizia il percorso in aula. Ospite tra poco il ministro delle riforme Quagliariello. Fiat. Il giorno dopo l'annuncio del trasferimento della sede, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, ospite oggi di Telefisco, dice: verificheremo che le norme italiane, le norme fiscali italiane naturalmente, siano state rispettate. Processo Meredith, il giorno dell'appello, la sentenza dovrebbe arrivare dopo le 17, Amanda Knox attende a Seattle, Raffaele Sollecito in aula. Telecom Sawiris annuncia di essere pronto ad investire nell'azienda, bene il titolo in borsa. Positive oggi le aste di titoli di Stato italiani, con rendimenti in netto calo sia per i 5 anni che per i 10. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, che se volete potete commentare al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Un'ultima ora prima di aprire con la politica, che arriva da Grenoble, dove come sapete è ricoverato Michael Schumacher dopo l'incidente sugli sci. I sedativi somministrati a Michael sono da pochi giorni in diminuzione al fine di iniziare un processo di risveglio che potrebbe durare a lungo, così Sabine Kelm, che è la manager, come sapete, di Michael Schumacher. Ora veniamo appunto alla politica. Caos alla Camera, dopo una serata, quella di ieri, molto difficile, giornata che si è chiusa con l'assalto dei deputati del 5 Stelle ai banchi del governo e più di un contatto fisico. Oggi i grillini hanno presentato la richiesta di impeachment, intanto approda in aula la legge elettorale. Andiamo con ordine, partiamo dai nuovi scontri alla Camera, appunto a Montecitorio, e ci colleghiamo proprio con Montecitorio, con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Per dare l'idea di quale clima ci sia questa mattina qui a Montecitorio, è emblematico il fatto che le porte di accesso agli uffici della Presidente della Camera, Laura Boldrini, siano sbarrate da ieri sera. Le porte blindate risultano chiuse a chiave e devono essere aperte dall'interno dai commessi dell'anticamera, un fatto questo che non era mai successo, a sentire almeno i commessi con maggiore anzianità. La decisione viene spiegata col fatto che si vogliono evitare occupazioni della Presidenza dopo quella parziale della Commissione Affari Costituzionali e totale della Commissione Giustizia, occupata quest'ultima dal deputato 5 Stelle Ferraresi, che tu Simone hai raggiunto telefonicamente. Sentiamo allora. Sì, no, però hanno chiuso la porta per non far entrare gli altri, loro dentro con un po' di commessi e insomma così. Sono appena uscito perché hanno convocato la Commissione Giustizia in un altro luogo, e però tutti i miei colleghi, c'erano gran parte dei miei colleghi fuori dalla Commissione perché non li facevano entrare. Quindi cioè, io ero dentro, ma c'era fuori altri colleghi, e poi è arrivato D'Ambruoso addirittura in commissione, gli hanno tirato insomma. Che cosa gli hanno tirato a D'Ambruoso? No, non gli hanno tirato niente, nel senso, stavo dicendo che gli hanno detto di andarsene perché dopo quello che aveva fatto, poi non lo so perché ero dentro, quindi non le posso dire cose che non so perché loro erano fuori, io ero dentro perché non li facevano entrare, hai capito? Tensione, sì, Simone, eccoci, vai. Tensioni che continuano perché poco fa qui in sala stampa battibecco tra Di Battista, 5 Stelle e Speranza del PD, scuse invece dal deputato D'Ambruoso di Scelta Civica, ne parlavate nell'intervista telefonica con Ferraresi, e scuse alla grillina Lupo per uno schiaffo ieri sera in aula definito da D'Ambruoso involontario. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, tra poco torneremo a parlare del Movimento 5 Stelle e della richiesta di impeachment, intanto andiamo alla legge elettorale perché in tutta questa confusione nel frattempo il testo base è passato in commissione e approda in aula, anche qua con proteste dei 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, infatti il primo ostacolo è stato proprio stamane con l'approvazione della parte della Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge sulla legge elettorale, perché ci sono stati anche lì gli schiamazzi e le proteste del Movimento 5 Stelle, ma la riforma sarà in aula adesso alle 13 e sappiamo che praticamente l'accordo Renzi-Berlusconi deve poi ottenere la prova di Montecitorio. Ricordiamo che ci sarà lo scrutinio segreto e si temono i franchi tiratori. Però per il segretario PD il tema dell'incostituzionalità non riguarda le preferenze, precisa Renzi: con il Porcellum c'erano 30 nomi e votando il simbolo si votava il pacchetto intero, stavolta i collegi sono molto più piccoli e il nome dei candidati compare sulla scheda. Altro tema è quello della norma salva Lega, il PD risponde a Matteo Salvini: se il segretario del Carroccio si mostra ostile a quanto deciso non saranno certo i democratici a spingere verso la norma per far entrare la Lega a Montecitorio. Ancora c'è poi sullo sfondo il rimpasto, ma Renzi si tiene fuori, dice spetta a Letta. Il segretario PD va oltre e spiega che subito dopo l'approvazione della legge elettorale ci sarà il disegno di legge sul Senato e sulle regioni. Ricordiamo le ultime modifiche nell'accordo Renzi-Berlusconi: soglia del 37% per ottenere il premio di maggioranza al primo turno, soglia abbassata al 4,5% per entrare in Parlamento per le forze più piccole. Simone. Grazie Elisabetta. Fiorito, come si diceva, ancora il Movimento 5 Stelle protagonista con la richiesta di impeachment per il Presidente della Repubblica Alessandra Schepisi. Eccoci. Sì, è così, attentato alla Costituzione, questo è il reato per cui il Movimento 5 Stelle accusa il Presidente della Repubblica, attentato alla Costituzione per il mancato rinvio alle Camere di leggi incostituzionali, abuso del potere di grazia e della decretazione d'urgenza, grave interferenza nei procedimenti giudiziari sulla trattativa Stato-mafia. Quanto basta dunque per i grillini a giustificare la messa in stato d'accusa, più volte minacciata e questa mattina trasmessa formalmente ad entrambi i rami del Parlamento. Napolitano d'arbitro è diventato giocatore, ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, durante la conferenza stampa che si è tenuta poco fa, in cui il Movimento 5 Stelle ha illustrato le ragioni dell'impeachment. Sentiamo allora Di Maio. Il Presidente della Repubblica, per una serie di ragioni, per noi non è più colui che detiene il ruolo di garante delle regole costituzionali e dei diritti costituzionali di questo Paese, e noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle come opposizione, e non credo sia una coincidenza il fatto che da quando il Movimento 5 Stelle è in Parlamento i vertici di maggioranza si stanno facendo al Quirinale, come sulla legge elettorale, escludendo l'opposizione. Il Presidente della Repubblica, si legge nel documento lungo 10 pagine, non sta svolgendo il suo mandato in armonia con i compiti e le funzioni assegnatigli dalla Costituzione e di fatto sta alterando il sistema costituzionale repubblicano. Ora di fatto comincia l'iter, ma si tratta di un percorso molto complesso che coinvolge il Parlamento con una maggioranza assoluta, una giunta speciale e la Corte Costituzionale. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. A chi già ci scrive in maniera anche piuttosto brutale via SMS, a proposito del decreto approvato ieri, non della parte sull'IMU che ormai la conosciamo a memoria, ma della parte su Banca Italia, parleremo più avanti cercando di spiegarvi un po' esattamente che cosa contiene. Parliamo di Fiat, il titolo oggi in borsa dopo la caduta di ieri va bene, guadagna un 1,04%. Adesso, dopo la decisione di spostare la sede legale, soprattutto fiscale, all'estero, intanto c'è chi rimprovera il silenzio dell'Agenzia delle Entrate. Ecco la replica del direttore dell'agenzia, Tilio Befera, intervistato da Maria Luisa Pezzali a margine di Telefisco, il convegno annuale dell'esperto risponde del Sole 24 Ore. Ascoltiamolo. Noi lavoriamo in silenzio e stiamo lavorando. Quindi il fatto che Fiat non pagherà più le tasse in Italia? Ma questo è un fatto naturale. Chi viene in Italia paga le tasse in Italia, chi va fuori d'Italia paga le tasse nel paese dove fissa la propria residenza. C'è la libera circolazione di capitali in Europa, nel mondo, in Europa in particolare. C'è una exit tax, Fiat pagherà, se dovrà pagarla, l'exit tax. Non è una perdita per il sistema paese, per un marchio storico che tra l'altro, come dire, veicola l'italianità nel mondo? Ma questo è un problema che va molto oltre il semplice problema fiscale. Noi in silenzio lavoriamo sul problema fiscale, il resto dipende da condizioni economiche, sociali, parlamenti, governi e così via. Io non sono una persona che può giudicare, io applico la legge. Quindi dal punto di vista fiscale non posso ovviamente impedire alla Fiat di fare delle scelte economicamente convenienti per loro, verificheremo il pieno rispetto delle leggi fiscali italiane. Se ha delle stabili organizzazioni in Italia, se ha delle società in Italia, quelle società pagheranno regolarmente le imposte in Italia. Telefisco, dunque 110 sedi collegate, come vanno le cose, Mauro Meazza? Buongiorno, bene, grazie, bene, stiamo, come dire, affrontando, e Befera, il direttore Attilio Befera, ci ha dato un po' in là questa mattina perché ha messo sul piatto altri due temi molto importanti, molto caldi: provvedimento per agevolare il rientro dei capitali in Italia, è andato in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato ieri sera, e il direttore Befera ha detto rapidissimamente avremo anche tutta la parte attuativa di questo questo provvedimento per far emergere i capitali sconosciuti al fisco detenuti in altri paesi. Poi un altro dettaglio, si fa per dire, molto importante, col redditometro, ha annunciato Befera, siamo pronti per i controlli, il nuovo redditometro da cui ci aspettiamo parecchio sulla lotta all'evasione, però non saremo esagerati, questo più o meno la sua dichiarazione, cioè faremo insomma una cosa mirata, una cosa puntuale e non controlli diciamo a pioggia, cercando di prendere qua e là, ma intervenendo con una platea molto selezionata. Chiusura dell'appuntamento, Mauro? La chiusura dell'appuntamento è intorno alle 6 di oggi, ne approfitto allora, Simone, per ricordare, oltre alle finestre informative che potremo avere qui su Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, trovate tutta la intervista data dal direttore Befera a Telefisco. Potete anche seguire i lavori, naturalmente Telefisco poi è un evento che dà anche dei crediti, quindi c'è una necessità di registrazione e anche di pagamenti, ma ci sono ampie parti ad accesso gratuito dove diamo notizia degli eventi, delle notizie che man mano emergono dalla manifestazione. Grazie al nostro Mauro Meazza. Noi adesso parliamo di Telecom Italia, perché ci sono queste dichiarazioni di questa mattina di Naguib Sawiris, che dice: se Telecom decide di non vendere TIM Brasile e di lanciare un aumento di capitale, sarei interessato ad investire. Il miliardario egiziano in una nota ribadisce anche di non aver presentato nessuna offerta per la controllata brasiliana e che Telecom Italia ha ancora bisogno di 3-4 miliardi di euro. Tutti sono benvenuti in Italia se investono, commenta il presidente del Consiglio Letta in una conferenza stampa nella quale ha parlato di banda larga. L'Italia conta di raggiungere il 50% della popolazione in 3 anni con la nuova rete. Tra l'altro, dice Letta, lo scorporo della rete Telecom è l'extrema ratio se non vengono raggiunti gli obiettivi di sviluppo. E poi parla del ruolo del pubblico e del privato in queste vicende. Ascoltiamolo. L'agenda digitale rappresenta un punto prioritario dell'azione del nostro governo. Però siamo indietro, questo è chiaro, e quindi c'è bisogno di una forte accelerazione. L'accelerazione la danno i privati e il pubblico. I privati devono fare gli investimenti, È assolutamente necessario che questo avvenga e noi ci aspettiamo che li facciano e che ne facciano più di quanti ne hanno fatto fino adesso. Il pubblico, il governo in particolare, deve costruire una matrice di impegni vincolanti e di obiettivi. Abbiamo parlato di rete, ebbene adesso parliamo di chi questa rete la usa, un colosso come Google e gli smartphone. Che cosa è successo? È successo che Google ha venduto Motorola a Lenovo. Sentiamo. Nel 2012 Google aveva pagato 12,5 miliardi di dollari per mettere le mani su Motorola e sui suoi 10.000 brevetti nel settore della telefonia mobile. Ora i miliardi sono meno di 3, 2,91 quelli che entreranno nelle casse di Google per vendere Motorola ai cinesi di Lenovo, al netto dei brevetti che rimangono in California e che potranno essere concessi in licenza. La strategia di Google è chiara: concentrarsi sui servizi e sul software, il vero business della telefonia mobile, e lasciare la produzione di hardware, dove la concorrenza è sempre più forte, a coreani come Samsung ed LG o cinesi come Lenovo o Huawei, che usano il sistema operativo Android. Per capire la dinamica basta guardare al mondo dei PC. Nella parte ricca del mercato c'è chi fa il software come Microsoft e non certo i produttori di hardware, la cui unica salvezza è diventare giganti per puntare sulle economie di scala. Lenovo, che da poco è diventata il maggiore produttore mondiale di computer, sta puntando molto su smartphone e tablet e l'acquisto di Motorola sarà un ottimo acceleratore di questa corsa. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca con il processo Meredith. Oggi arriverà la sentenza d'appello, Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Il Raffaele sarà in aula mentre Amanda aspetta da Seattle. Dopo le 17 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze uscirà dalla Camera di Consiglio per emettere la nuova sentenza sul diritto di Meredith Kercher, la quarta in 7 anni da quando la studentessa inglese fu trovata senza vita a Perugia il 2 novembre del 2007. I giudici si sono ritirati alle 10:15, hanno dato appuntamento alle parti e agli oltre 500 giornalisti per il tardo pomeriggio. Nell'aula sono attesi anche i fratelli di Meredith e ci sarà appunto pure Raffaele Sollecito, che con la sua presenza vuole forse anche rassicurare la corte sul fatto che non abbia intenzione di fuggire. Se i due ex fidanzatini e ora coimputati fossero infatti condannati, potrebbero scattare anche le misure cautelari chieste dalla Procura Generale, dal divieto di espatrio fino al carcere. Per Sollecito questo scatterebbe subito, per Amanda invece, che è negli Stati Uniti, bisognerebbe attivare i trattati tra i due paesi. Questo nel caso però, cioè, se fossero condannati. In primo grado Amanda e Raffaele furono condannati a 26 e 25 anni, poi assolti in appello, poi di nuovo a giudizio dopo la decisione della Cassazione di annullare quel verdetto. Ora l'accusa chiede 30 anni per Amanda e 26 per Sollecito. Le sentenze emesse nel nome del popolo italiano non prevedono probabilità, ma esigono certezze, ha detto la difesa della ragazza americana nella replica questa mattina, prima cioè che cominciasse la lunga camera di consiglio. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, naturalmente vi aggiorneremo nel corso della giornata. In chiusura di questa prima parte vogliamo parlare di sport. Innanzitutto c'è la notizia che vi abbiamo dato in apertura, che è iniziato il lento processo di risveglio per Michael Schumacher, ancora ricoverato in ospedale dopo la caduta in sci, ma quello di cui vogliamo parlare con Giovanni Capuano, che è già in studio con me, il calciomercato, le ultime, perché siamo quasi in chiusura, eh? Sì, siamo quasi in chiusura, mancano 34 ore, si chiude domani alle 23 e sono ore caldissime, soprattutto sul quadrato che va da Milano a Roma, a Torino e poi si allunga fino a Londra. Ci sono almeno 4 tavoli aperti, molti intrecci che riguardano Inter e Juventus, che saranno anche le protagoniste domenica sera del big match di giornata e che una settimana fa, proprio in queste ore, erano entrate ufficialmente in guerra dopo la vicenda del mancato scambio tra Guarin e Vucinic. Cerchiamo di fare il punto rapidamente. Toir, il presidente dell'Inter, è a Roma e ha in agenda la trattativa con la Lazio per Hernanes, che però si è complicata perché Mbaye, il giovane in prestito al Livorno, ha rifiutato di andare alla Lazio e quindi bisogna ricominciare da zero col rischio che salti tutto. L'Inter sta per vendere Belfodil in Premier League, potrebbe cedere Icardi al Monaco in prestito, aspetta risposta per Nani, che piace anche alla Juventus, che in questo momento con un intermediario è a Londra per chiudere con Osvaldo, ma potrà farlo soltanto un minuto dopo aver ceduto Vucinic, che aspetta ancora l'Inter ma potrebbe finire in prestito all'Arsenal. E poi sullo sfondo c'è ancora Guarin, te lo ricordi, quello di settimana scorsa. Il suo procuratore continua ad aspettare una telefonata dall'Inter che non arriva, lui vuole la Juventus, l'Inter lo cederebbe soltanto all'estero. Insomma, un intreccio che in qualche modo dovrà risolversi, perché alle 23 di domani si chiude e una soluzione andrà trovata. È sbarcato il nuovo acquisto del Milan, il marocchino Tarbat, ti dico solo che dicono che ha un carattere peggiore rispetto a quello di Balotelli. Insomma, ci sarà da divertirsi. Pensa un po', ci sarà da divertirsi e da parlarne naturalmente in tutti i convocati a partire dalle 14. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora nel caos la Camera dei Deputati, si sfiora la rissa in Commissione Giustizia, le porte degli uffici della Presidente Boldrini sono state sbarrate. Dopo l'assalto di ieri, il Movimento 5 Stelle presenta la richiesta di impeachment per Napolitano. E intanto la Commissione Affari Costituzionali approva il testo base della legge elettorale, inizia il percorso in aula. Fiat, il giorno dopo l'annuncio del trasferimento della sede, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, ospite di Telefisco, verificheremo il rispetto delle norme fiscali italiane. Giovannini, siamo convinti del rispetto dell'impegno occupazionale di Fiat. Processo Meredith, il giorno dell'appello, la sentenza dovrebbe arrivare dopo le 17, Amanda Knox attende a Seattle, Raffaele Sollecito in aula. Buongiorno al ministro delle riforme Gaetano Quagliariello, bentornato ad Effetto Giorno. Buongiorno. Allora, il primo commento che le chiedo naturalmente su tutto quello che sta succedendo, che è successo ieri e che sta continuando a succedere oggi alla Camera dei Deputati. C'è chi addirittura accusa i deputati del Movimento 5 Stelle di fascismo. Mi sembra ci sia un atteggiamento antiparlamentare e antistituzionale. Non è la prima volta, proprio per questo le istituzioni devono essere ancora di più al di sopra di ogni sospetto. Quello che è accaduto è grave, il confronto democratico si deve svolgere senza che si vada sui sconfini, da una parte appunto negli incidenti continui e dall'altra anche in iniziative che francamente mi sembrano demenziali, come quella dell'impeachment nei confronti del presidente Napolitano. E quindi anticipato la domanda che le avrei fatto dopo, quella sull'impeachment al Presidente della Repubblica, benissimo così. Voglio soffermarmi con lei sulla legge elettorale. Le chiedo per un attimo di svestire i panni di ministro e di parlarci come rappresentante del nuovo centrodestra. Se è soddisfatto dell'ipotesi che sta circolando in queste ore, 37% per il premio di maggioranza, 4,5% la soglia di sbarramento. No, io dico che si è fatto qualche passo avanti, soprattutto l'innalzamento della soglia. Credo che noi abbiamo cambiato questa legge. All'inizio era una legge, diciamo, un letto a due piazze, e francamente non garantiva nemmeno la continuità, la governabilità, perché il modello spagnolo applicato a una situazione in cui ci sono tre poli avrebbe fotografato questa situazione. Ora c'è una legge che potenzialmente dà la possibilità alla sera delle elezioni di sapere chi ha vinto e chi ha perso. C'è ancora da migliorarla questa legge, perché da una parte non ci sono le preferenze. Io non credo che le preferenze siano la panacea, ma penso che sia il modo per evitare che si crei ulteriore distacco tra la politica e i cittadini. Le leggi elettorali devono rispondere anche alle esigenze del momento storico. Non c'è dubbio che c'è stato un grande movimento, diciamo, di popolo contro. Quindi le preferenze ci vogliono, ministro, secondo lei? Sì, ci vuole, bisogna dare agli elettori la possibilità di scegliere i loro rappresentanti in qualche modo, e su questo noi andremo avanti. Oggi c'è stata una manifestazione dei nostri giovani davanti a Montecitorio, credo che abbiano ragione. Preferenze oppure? Oppure è possibile avere, ad esempio, con leggi uninominali, come in Germania, cioè ci sono altri modi. Io, insomma, ripeto, non sono un fanatico delle preferenze, ma credo che noi non ce la caviamo dicendo che dai listoni siamo passati ai listini. Sempre liste bloccate sono. E se non riuscisse a passare questa linea, voi la nuova legge elettorale non la votereste, immagino? No, io credo che bisogna vederla complessivamente. Uno, quando fa una battaglia, non è, può arrivare a pensare sempre di ottenere tutto. Ecco, la cosa importante è che questa legge risponda, ecco, questa è l'altra esigenza, qui se vuole mi rimetto un attimo il cappello da ministro, che risponda a quanto ci ha chiesto la sentenza della Corte Costituzionale, cioè questa legge deve funzionare. Ecco, noi non possiamo avere una legge che nemmeno per sbaglio conceda ad un partito che ha il 22,5%, faccio un esempio, il 23%, il 53% dei seggi. Questo non è un rischio che si può correre, così come non si può nemmeno correre il rischio, per mancanza di una norma di chiusura, che i seggi vadano tutti quanti a un partito, che un partito prenda il 100% dei seggi. Le faccio un esempio: 5 circoscrizioni che sono al 10%, 2 liste che sono al 7% e una sola coalizione che supera la soglia del 12%. In quella coalizione un solo partito va sopra il 4%. Ad esempio, facciamo così, il PD prende il 33% e si ferma al 4% SEL. In una situazione di queste al PD vanno il 100% dei seggi. È chiaro che questo non deve poter accadere nemmeno per ipotesi. Nemmeno per ipotesi. Nemmeno per ipotesi, vuol dire che manca una norma di chiusura. Lei si ricorda che quando fu approvata quella legge che viene chiamata il Porcellum, c'erano delle coalizioni, il centrodestra e il centrosinistra, che erano sopra il 40. Sì. Nessuno avrebbe pensato che un giorno sarebbero scese sotto il 30. Certo. La legge è diventata incostituzionale allora. Certo. Ministro, secondo lei c'è tecnicamente, non dico politicamente, tecnicamente la possibilità che si vada a votare a maggio se si approva in tempi rapidi la legge elettorale? Mi pare difficile, non mi pare pressoché impossibile, francamente. Pressoché impossibile. Facendo i conti, perché appunto questi devono disegnare i collegi, si devono perfezionare i collegi, quindi non mi pare possibile. Non possibile. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda le riforme istituzionali. Allora, in ballo, come sappiamo, ci sono tante cose. Le due principali, quelle messe sul piatto al Partito Democratico, sono la revisione del Senato con una trasformazione in Camera delle Autonomie e dall'altra parte, in parte collegato anche a questo, la revisione del titolo quinto della Costituzione, quindi la revisione di tutte le attribuzioni tra regioni, Stato ed enti locali, mettiamola così, la revisione del federalismo. È possibile che le due cose si possano far viaggiare separate, come dire, per consentire, a differenza di quello che probabilmente è successo con il referendum sulla riforma allora vostra della Costituzione, che si procede in questa direzione con due pacchetti distinti? Ma io volevo dirle innanzitutto, questo non sono le riforme messe in campo dal Partito Democratico, sono le riforme che fanno parte del programma del governo, dopo che Forza Italia ha bloccato il cosiddetto Comitato Parlamentare dei 40, con i quali si sarebbero fatte queste e anche altre riforme. Letta è andato in Parlamento e ha detto che le riforme più importanti dopo la legge elettorale sono il bicameralismo e il titolo quinto. Noi siamo d'accordo e crediamo anche che le due riforme siano collegate, però possano marciare distinte. Mi spiego. La riforma del bicameralismo serve a due cose. Innanzitutto a rendere attuabile questa legge elettorale, perché una legge elettorale a due turni non può certamente prevedere due ballottaggi, uno per la Camera e uno per il Senato. Magari col rischio che alla Camera arrivino al ballottaggio il centrodestra e il centrosinistra e dall'altra parte il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Sto facendo degli esempi a caso. Sì, naturalmente. Ora c'è una soglia che non va superata ed è quella del ridicolo. Dicevo, quindi la riforma del bicameralismo è necessaria per questo, è necessaria perché noi non possiamo metterci 150 giorni per approvare un 6 mesi per approvare una legge, mentre negli altri paesi europei bastano appunto 90 giorni. Sì. E poi è necessaria perché è un pezzo della riforma del titolo quinto. Perché le dico un pezzo? Perché il Senato dovrebbe diventare quella camera di compensazione tra Stato e Regione che il titolo quinto non ha previsto. Cosa è successo? Che noi abbiamo dato col titolo quinto alle regioni cose che non sono state date nemmeno nei paesi federali, nemmeno in Canada e in Germania. Pensi alle grandi reti. Quello naturalmente va rivisto. Ministro, siamo veramente in chiusura, quindi la sostanza è che le due cose comunque possono viaggiare separate, cioè sono collegate. Separate, ci possono essere due referendum separati. Grazie al ministro Gaetano Quagliariello per essere stato con noi e saluto invece il professor Pietro Reichlin, professore di economia politica all'Università LUISS di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, abbiamo pochi minuti, siamo andati un po' più lunghi con il ministro Quagliariello, e però le voglio chiedere questo, le abbiamo chiesto di intervenire per spiegarci un po' meglio come funziona questo decreto contro il quale il Movimento 5 Stelle si è scagliato, che è quello su Banca d'Italia. Ci aiuta a capire che cosa succede, professore? Ma succede sostanzialmente che si è deciso che le quote della Banca d'Italia che sono possedute dalle banche, da alcune banche italiane, questo diciamo è sempre stato così in origine, poi successivamente, prima in precedenza le banche erano pubbliche, poi a seguito della privatizzazione sono diventate private, queste quote sono state rivalutate perché avevano un valore simbolico, irrisorio. E si è deciso di dare una valutazione più oggettiva basata sui dividendi che le banche si aspettano di avere dal possesso di queste quote. Che cosa succede in questo modo, professore? Lo spieghiamo molto semplicemente, che le banche ottengono di fatto dei dividendi più alti e in più rafforzano la loro patrimonializzazione in vista dell'esame europeo. Ed è in questa chiave che viene detto da molti è un regalo alle banche. Ma c'è una ratio in tutto questo? Cioè la convince la cosa oppure no? Diciamo che la metodologia che è stata adottata per la rivalutazione delle quote è senz'altro è controversa, d'altra parte i criteri sono soggetti diciamo, a, dibattito, e quindi certamente è stato nominato un gruppo di esperti che ha dato una valutazione con una forchetta molto ampia, che passava dai 3 ai 7 miliardi, ed è stato adottato, diciamo, il valore superiore, quindi senz'altro diciamo che le banche sono state trattate con una certa generosità, sicuramente. Bisogna ricordare però naturalmente che non si tratta di una privatizzazione, nel senso che lo statuto della Banca d'Italia è uno statuto particolare che lo rende comunque un istituto di diritto pubblico, quindi questo riconoscimento alle banche è un puro riconoscimento patrimoniale, non dà diritto alle banche di intervenire ovviamente sulla politica monetaria. Però certamente è stato un vantaggio che le banche hanno avuto sia dal punto di vista del loro rafforzamento patrimoniale sia dal punto di vista del flusso di dividendi che ricevono. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Appena battuta dalle agenzie, Schumacher non è più in pericolo di vita. A dirlo è l'Equipe Medica, avrebbe anche sbattuto le palpebre, da quel che risulta da alcune indiscrezioni che arrivano dall'ospedale, e sta incominciando il risveglio, ha riferito la sua manager. La Camera dei Deputati è ancora nel caos, si è sfiorata la rissa in Commissione Giustizia. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di disertare sia le sedute del Senato che quelle della Camera, e intanto ha presentato una richiesta di impeachment per Napolitano. Fiat, il giorno dopo l'annuncio del trasferimento della sede, il ministro Giovannini dice: siamo sicuri che ci sarà un rispetto degli impegni occupazionali da parte dell'azienda. Processo Meredith, il giorno dell'appello, la sentenza dovrebbe arrivare dopo le 17. Amanda attende a Seattle, sollecito in aula. E veniamo adesso alla borsa. Borse in diretta. In una giornata caratterizzata tra l'altro da due aste di titoli di Stato positive, con BTP a 5 anni collocati con rendimenti al 2,43% rispetto al 2,71% dell'ultima asta, e i decennali al 3,81% sotto il 4% rispetto al 4,11% dell'asta di dicembre. Ed è una giornata, devo dire la verità, non particolarmente brillante: più 0,06% sul FTSE MIB, più 0,07% sul FTSE All Share, Parigi in calo dello 0,3%, Francoforte dello 0,34, Londra dello 0,31. Come la leggiamo questa giornata, Isabella Tasso? Buongiorno. Buongiorno. Sì, Milano resta marginalmente positiva a metà seduta, va meglio comunque degli altri listini, questo grazie al buon esito dell'asta dei BTP di cui ha parlato poco fa, che ha mostrato appunto rendimenti ai minimi storici. Le altre borse sono deboli, questo in scia al nuovo taglio degli stimoli monetari da parte della Riserva Federale Americana, al conseguente calo della borsa di Tokyo e ieri sera di Wall Street. Le borse restano in attesa adesso di due dati macroeconomici americani importanti, in particolare la prima stima sulla crescita del quarto trimestre e le richieste di sussidi alla disoccupazione. Allora, sui primi due titoli, sui due titoli migliori non ci sono dubbi. Banco Popolare più 3,12 è un po' di recupero rispetto a come è andato dopo l'annuncio dell'aumento di capitale di venerdì. Telecom Italia più 2,74, qua c'è Sawiris, lo abbiamo riferito poco fa, che ha detto, dice, se non vendono Telecom Brasile sono disposto a partecipare all'aumento di capitale. Colpisce questo crollo letteralmente ai TOTS, meno 7,45%, Isabella? Sì, al mercato non sono piaciuti i risultati comunicati ieri, il titolo scivola appunto di oltre il 7%, ha registrato ricavi sotto le attese con un debole andamento soprattutto in Cina, da qui la revisione al ribasso dei giudizi da parte di diversi analisti. Infine, brevissimamente, Pirelli, che è un altro titolo che va molto male oggi, meno 6%. Pirelli, sì, ci sono realizzi, fa meno 6,5%, questo dopo che il numero uno del gruppo, Marco Tronchetti Provera, ieri ha smentito le voci su una possibile offerta sul gruppo della Bicocca. Grazie Isabella Tasso, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ritorniamo sulla politica adesso, per tornare invece sugli scontri che ci sono stati ieri in aula alla Camera con, lo avete visto anche nelle immagini, i deputati del Movimento 5 Stelle che si dirigono verso i banchi del governo. È volato anche qualche schiaffo, come abbiamo sentito. Saluto Sabino Labia, che è un collega giornalista, autore di Tumulti in aula a Liberty Editore. Buongiorno Sabino, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Allora, è un libro che contiene una divertentissima storia delle risse parlamentari sostanzialmente. Diciamo che si è visto anche di peggio nella storia parlamentare del nostro paese rispetto a quel che abbiamo visto ieri. Sì, infatti io dico sempre che nulla si crea, tutto si trasforma, proprio perché le risse sono nate con il Parlamento. Nel nostro Parlamento ce ne sono state tantissime. Quella più famosa è sicuramente quella della legge truffa del 1953. E quello che abbiamo visto ieri non è nemmeno una novità riguardo la famosa norma della ghigliottina. Infatti, leggendo i giornali oggi, si sentiva non è stata mai attuata, i commenti dei politici. La norma c'è e c'è anche il precedente con la rivolta della Lega nel 1996. L'attuò Mancino, che era presidente del Senato. Quindi mai attuata alla Camera, ma in realtà al Senato fu attuata. È stata attuata. E a che cosa portò? Portò, praticamente si discuteva di quattro decreti, e c'era il decreto sulle aree depresse, sull'editoria, sulle concessioni televisive, e Mancino decise che dopo varie proposte di interruzione, c'era l'ostruzionismo soprattutto della Lega, decise di attuare questa norma del regolamento e si votò nel giro di pochissime ore a tutti i decreti. E i leghisti come reagirono? Protestarono soltanto, non l'ha fatto in specie. Dissero soltanto che non c'era democrazia in Italia, proprio alla fine era solo l'attuazione del regolamento. La prima rissa della storia parlamentare, Sabino? Nel 1947. 1947, sì, quindi siamo proprio all'inizio. E che cosa successe là? All'epoca praticamente ci fu l'opposizione, che poi non era opposizione, c'era tutta l'Assemblea Costituente, era costituita soprattutto da Giannini e dalla sua lista dell'uomo qualunque. E come tutte le risse si arrivò a pugni, schiaffi, rivolte, tavolette lanciate. L'altra fu quella del 2 anni dopo, si discuteva del Patto Atlantico. E in quel caso furono i comunisti con il famoso Pajetta che... Pajetta fratello, cioè non, esatto. quello importante che... Tarzan Pajetta, così detto perché si lanciò contro i banchi del governo, no? Esatto, si lanciò contro i banchi del governo. E volarono anche cassetti e oggetti. Volarono anche cassetti. Come dicevo prima, nel 1953 addirittura ci fu anche un cittadino italiano che decise di fare causa, perché i danni all'aula di Palazzo Madama erano stati ingenti, e fece causa contro i parlamentari. Grazie Sabino Labia. Prego. Per questi racconti, altri ne trovate in Tumulti in Aula a Liberty Editore, quindi storie di risse parlamentari. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La Camera dei Deputati è ancora nel caos, si è sfiorata la rissa in Commissione Giustizia, il Movimento 5 Stelle ha deciso di non partecipare alle prossime sedute di Senato e Camera, nel frattempo la legge elettorale approda appunto in aula alla Camera. Schumacher sbatte le palpebre, dice l'equipe medica che lo sta seguendo, e non è più in pericolo di vita, è iniziato il processo di risveglio. Processo Meredith è il giorno dell'appello, la sentenza dovrebbe arrivare dopo le 17. Telecom, Sawiris annuncia di essere pronto ad investire nell'azienda, a partecipare ad un eventuale aumento di capitale. Bene il titolo in borsa. È il momento di Mario Platero e di America 24. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, dunque, la Fed ha deciso di tagliare altri 10 miliardi di dollari dagli interventi quantitativi sul mercato, passiamo così a 65 miliardi di interventi mensili. A marzo, alle prossime riunioni, forse si continuerà a scendere. La giustificazione: l'economia americana va meglio, ma la decisione della Fed fa soffrire i mercati emergenti. La Turchia, ad esempio, alza i tassi, si aprono nuove prospettive per i mercati internazionali, avremo assestamenti, avremo turbolenze, ma non vorrei soffermarmi troppo oggi su questa decisione della Fed, vorrei invece parlarvi di un tema correlato e specifico, perché domani c'è l'uscita di scena di un uomo che ha fatto storia. It's my nature, I think, to kind of focus on the problem, you know, and I was so absorbed. Siamo alla fine del mandato Bernanke, un mandato di 8 anni, e devo dire è stato un governatore che resterà nella storia, perché ha preso delle decisioni importanti, difficili, drammatiche, in un momento che poteva essere devastante per l'economia americana e per l'economia globale. E dunque, per parlare di Bernanke e del suo operato, ho con me ai microfoni di America 24 Donato Masciandaro, professore di economia della regolamentazione finanziaria alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, quindi scriviamo sullo stesso giornale, e con il quale, premetto subito, non ci troviamo d'accordo. Buongiorno Masciandaro. Buongiorno dottor Platero. Come ho detto nel preambolo, lei, come dire, ha spesso picchiato duro contro la politica della Fed e Ben Bernanke. Io invece, vedendo le cose da qui, forse sono influenzato magari da una certa retorica americana, però ho come l'impressione che invece Bernanke alla fine abbia fatto bene. Lei che voto complessivo dà a Bernanke? Poi le dico quello che do io. Il mio voto complessivo è un 6 abbondante, che è una media del 4 di Bernanke come membro della Fed durante il periodo pre-crisi, un 8 più per il Bernanke nella gestione della crisi e un diligente 6 nel Bernanke dopo crisi. E devo aggiungere che anch'io la leggo sempre, è vero che siamo stati divergenti, ma forse nell'ultima parte. Ecco, infatti, no? Infatti sì, lei ha ragione, io non condivido il suo severo, secondo me 6 nel dopo crisi. Perché secondo lei invece Bernanke, che dal mio punto di vista ha contribuito alla ripresa americana ed arrivare a quel circolo virtuoso, 4,1% di crescita al quarto trimestre, occupazione che è aumentata, disavanzo pubblico che è crollato addirittura al 4%. Ecco, perché secondo lei, a fronte di questi risultati, Bernanke, come ha scritto, è balbettante? È premesso che sono poi curioso di suo voto sull'ultimo periodo. Glielo dico subito, io continuerei con l'8, secondo me c'è stata una linea di continuità dall'8 più, diciamo 8, ma diciamo che secondo me ha tenuto una barra dritta, per cui quello è il mio voto, ma a lei la parola. Le sue argomentazioni sono robuste e proverò a dire perché non mi convincono fino in fondo. La tentazione più forte è la politica monetaria. La politica monetaria ha fatto tanto per la crescita. Io non ne sono affatto convinto. Quello che ho guardato è la situazione delle masse monetarie, e le masse monetarie ci dicono che il sistema era ed è in quella che viene chiamata la trappola della liquidità, quando cioè per quanto sia forte l'inzione di base monetaria, il printing money, lasciatemelo dire, le masse monetarie non reagiscono perché gli operatori sono avversi al rischio e quindi tesaurizzano. Scusi, spieghiamo ai nostri ascoltatori, sì, perché forse entriamo in un contesto un po' tecnico. Per masse monetarie e per reazione, in termini pratici, cosa significa? Che non cresce abbastanza la moneta e non cresce abbastanza il credito, o meglio, non cresce nelle dimensioni con cui si è pompata moneta nel sistema. Quando io triplico i dollari stampati, uso questa cruda immagine, se tutto è normale, la moneta e il credito si deve almeno triplicare. Non è stato così, e questo significa che il sistema è in una situazione in cui la liquidità non serve a far crescere l'economia reale. Ecco, una domanda provocatoria, ma cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa politica? Perché se dobbiamo immaginare che c'è stata una reazione con un moltiplicatore meno forte, se non ci fosse stata questa massa che è stata scaricata sul mercato, probabilmente avremmo avuto addirittura un andamento negativo ancora peggiore e l'economia sarebbe entrata in grave avvitamento. Il rischio c'era, ma c'è un altro rischio. Quel rischio era un rischio da affrontare nel breve periodo, e lui l'ha affrontato. Forse non è stato abbastanza coraggioso, perché c'era un'altra misura da prendere davvero per colpire quello che è l'obiettivo, vale a dire i tassi di interesse a lungo termine. Era lavorare sulla struttura dei tassi di interesse. Questo non è stato fatto, si è preferito una strada più semplice, che è quella di continuare a pompare liquidità, anche se il sistema continua come una spugna a ad assorbirlo. E quando si ha questa situazione, all'economia reale non ci sono dei grandi effetti. Il dibattito oggi negli Stati Uniti è sulla grande stagnazione, cioè il sistema non sta crescendo come ci si sarebbe aspettato dopo tanta iniezione di liquidità. No, certo, guardi, io chiudo sempre la mia trasmissione dicendo che l'America vive sì tempi difficili, perché continua a vivere tempi difficili. C'è un grande dibattito sulla disuguaglianza, su redditi che non crescono nello Stato dell'Unione, nel suo discorso dell'Unione il Presidente ha chiesto un aumento del salario minimo. Ci sono indubbiamente dei problemi, ma l'alternativa è sempre quella, guardando anche in modo retrospettivo, di capire, ma davanti a vari bivi, qual era quello che consentiva di minimizzare il rischio di un crollo vero? Io credo che Bernanke, con la sua impostazione di politica monetaria, in realtà abbia affrontato la questione dei tassi a lunga, cercando di affrontarla in modo più graduale, nel senso che ha cominciato poi la diminuzione delle politiche di acquisto sul mercato, proprio per massaggiare, dopo una lunga politica di comunicazione, ma di massaggiare i mercati di modo che fossero pronti senza traumi a questo cambiamento. Ma direi che, professore, lascio a lei l'ultima parola. Faccio solo una piccola così osservazione con i nostri ascoltatori: ma dove lo trovate un altro giornale dove due persone che scrivono sulle stesse cose e la pensano in modo diverso poi possono parlarne in trasparenza, in modo franco e, aggiungo, in modo civile? Dunque la ringrazio e le do l'ultima parola. Direi che se siamo partiti con il voto di Bernanke, mettendo insieme i voti dei due valutatori, mi sembra che alla fine Bernanke sia uscito bene, e non solo, ma mi auguro che dei due voti, quello che, perché l'unico giudice vero sarà il tempo, alla fine abbia ragione lei. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Eccoci alla canzone del giorno. Kylie Minogue, nuovo single, Into the Blue, parte dal nuovo album della cantante, Kiss Me Once, uscirà a marzo, ve lo anticipiamo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Camilla Tomadini in assistenza in redazione, a tutta la redazione di Radio 24. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Ci si risente tra un attimo con il giornale radio, domani alle 13 con Effetto Giorno.